cosa successe veramente sul Monte Sinai? Mi è capitato spesso di leggere il libro dell'Esodo, un libro storico e pieno di avvenimenti, senza però riuscire a coglierne gli eventi nel loro ordine cronologico perché ero distratto dalle innumerevoli leggi cultuali, sociali e spirituali. Così, anche se non è possibile essere categorici, dato che la mentalità ebraica nello scrivere non segue sempre un ragionamento lineare, con un'attenzione particolare ho tratto le seguenti circostanze. Cap. 3. Mosè si avvicina alla montagna di Dio e vede, versetto 6, la manifestazione fisica della divinità di Israele, cioè Yahweh, chiamato in questa circostanza angelo, il quale gli parla, versetto 4, e lo manda a liberare il popolo di Israele. 10. Dopo alcune reticenze, 4.13, Mosè va e, dopo 430 anni di dimora, in Egitto il popolo riesce a partire. 12.40. Il primo giorno del terzo mese dall'uscita dell'Egitto, il popolo arriva al deserto del Sinai, di fronte al monte. I dimande, 9.12, Mosè, chiamato da Dio, salì sul monte. 19.3, dove Dio annunciò, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. 19.56. Inoltre, l'Eterno disse a Mosè, ecco, io verrò a te in una fitta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre. 19.9. Mosè chiama gli anziani del popolo e riferisce ogni parola. 19.79. Molto probabilmente, Mosè risalì sul monte per ricevere altri ordini, perché troviamo scritto che scese dal monte verso il popolo. 19.14. Tre giorni dopo, Mosè risale sul monte sul quale era sceso l'Eterno, 19.20, per ricevere l'ordine rivolto al popolo di non salire verso l'Eterno, 19.21. Solo lui e Aaron avrebbero ricevuto l'autorizzazione a salire, ma non i sacerdoti, 19.24. A questo punto, nel libro dell'Esodo, abbiamo il pronunciamento dei 10 comandamenti e la disposizione di varie leggi, fino al capitolo 23. Ma non è evidente quando sia avvenuto. Troviamo scritto che il popolo chiese a Mosè di fungere da loro mediatore, perché avevano paura di ascoltare 20.19 e di avvicinarsi a Dio. Al capitolo 24 l'Eterno disse a Mosè, «Sali verso l'Eterno, tu e Aronne, Nadab e Abiù, e 70 degli anziani di Israele, e adorate da lontano. Poi Mosè solo avanzerà verso l'Eterno, ma gli altri non si avvicineranno, e neppure il popolo salirà con lui. 24.12. Un incontro molto importante, perché 74 persone erano più credibili di una persona sola. Infatti, fino a quel momento, Mosè era il solo a riferire al popolo le parole di Dio e ciò che vedeva. Mosè riferisce al popolo ogni parola dell'Eterno, 24.3. Scrive ogni parola, 24.4. Prende il libro del patto, lo legge al popolo, 24.7, e spruzza del sangue d'agnello quale sigillo di quanto concordato nel patto, 24.8. In seguito Mosè, Aronne con i suoi figli e 70 degli anziani di Israele salgono sul monte, e in quel luogo mangiano, bevono e vedono Dio, 24.9.11, che vedono Dio è scritto due volte, perché chi legge possa crederci. Poi l'Eterno chiama Mosè dicendogli, sali da me sul monte e fermati qui, io ti darò delle tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritto, perché siano insegnati ai figli di Israele. Mosè dunque si alzò con Giosuè suo aiutante, Mosè salì sul monte di Dio e disse agli anziani, aspettateci qui finché non torneremo da voi. Aaron e Hur sono con voi, chiunque abbia qualche problema si rivolga a loro. 24.1.2.14. Mosè soggiornò sul monte, e vi stette 40 giorni e 40 notti, evidentemente in un luogo più in alto rispetto agli altri che erano saliti con lui. Da notare che sono le parole dell'Eterno, il quale dichiara che avrebbe dato a Mosè la legge e i comandamenti scritte da lui stesso su delle tavole di pietra. Es 24.12, 32.3233. In merito a questa affermazione, molti studiosi biblici sono scettici, nonostante nel libro dell'Esodo ripetutamente ricorra la testimonianza che Yahweh abbia scritto con il suo dito la legge e i comandamenti. 31, 18, 32.15. Nei capitoli da 25 a 31.17 leggiamo tutta una serie di comandamenti relativi al tabernacolo, ai suoi arredi, alle vesti sacerdotali, alla consacrazione dei sacerdoti, all'olio e al profumo sacri. Nel dare le disposizioni in merito al sacrifico perpetuo, l'Eterno fa una bellissima promessa. Mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro. Es 25.8. Io mi incontrerò con i figli di Israele e la tenda sarà santificata dalla mia presenza. Dimorerò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio. 29.4-3.45. Dunque, era l'intenzione dell'Eterno l'essere presente nella tenda di convegno, quella tenda che sarebbe stata in mezzo al popolo. Al termine di tutte queste disposizioni, leggiamo, quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte con il dito di Dio. 31.18. Nel frattempo, erano passati i 40 giorni, nei quali Mosè era stato alla presenza di Yahweh. Al capitolo 32, leggiamo che il popolo ormai si era fatto impaziente e si era modellato, con la complicità e per mano di Aaron e un vitello d'oro, e in onore del quale, avendole fatta la propria divinità, aveva indetto una festa. 32.4. L'Eterno ordinò a Mosè di scendere perché il popolo si era corrotto. 32.7. E minacciò di distruggerlo. 32.10. Ma Mosè intercedette a favore del popolo. 32.1113. La Bibbia dice che, nel scendere dal monte, Mosè si voltò tra... Ancora una volta, è messa enfasi sulle tavole. Le tavole erano opera di Dio, e la scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole. 32.16. Mosè scese con Giosuè e, nel vedere l'idolatria del suo popolo, gettò dalle mani le tavole che portava spezzandole ai piedi del monte. 32.19. Dio punì il popolo facendo morire in quel giorno circa 3.000 uomini. 32.28. Il giorno dopo, Mosè ritornò all'Eterno. 32.31, 32.31, 34. Dopo il vitello d'oro, l'Eterno parla molto duramente a Mosè, dicendo: «Va, sali di qui, tu col popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo, a Isaac, io manderò un messaggero davanti a te. Sali verso il paese dove scorre latte e miele, poiché io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo di collo duro e non abbia così a sterminarti per via». 33.13. All'udire che Yahweh aveva cambiato opinione non volendo più abitare tra gli israeliti, il popolo fece cordoglio e si tolse gli ornamenti, molto probabilmente come segno di lutto, partendo dal monte Sinai. 33.6. Perciò Mosè prese la tenda di convegno e la piantò fuori dall'accampamento, abbastanza lontano. 33.7. In modo che chiunque cercasse l'Eterno andasse da lui in quel luogo. Come Mosè entrava nella tenda, il popolo si alzava in piedi seguendo con lo sguardo Mosè. La scrittura specifica che, come Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva e si fermava all'ingresso della tenda. E l'Eterno parlava con Mosè. Così l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava a Ol, accampamento. 33.9.11. Non sono molti coloro che commentano questo brano, sia perché è imbarazzante, sia perché sembra impossibile che un uomo possa parlare faccia a faccia con la divinità, ma non vi nulla di strano e di impossibile se Yahweh è Cristo che ha assunto una fisicità umana per poter essere visto e toccato dagli uomini. Mosè dunque in quella tenda parlava con Cristo faccia a faccia come un uomo parla con il proprio amico. Ma di questo Mosè non era contento ed ecco che chiese di conoscere il messaggero che l'avrebbe accompagnato. 33.12. Così come prima chiese di conoscere le vie di Dio e poi chiese di vederne la gloria. 33.13-18. L'Eterno non rispose, come invece in genere si sostiene, che Mosè non potesse vedere la sua persona perché già lo vedeva mentre parlava faccia a faccia con lui nella tenda. ma rispose che non avrebbe potuto vedere la sua gloria e vivere. Tuttavia poi, volendolo accontentare, l'Eterno Dio gli promise che lo avrebbe posto in una fenditura della roccia, di coprirlo con la mano per dargli la possibilità di essere visto di spalle. 33.2.0.22 Ignorata né presa alla concessione dell'Eterno non può essere leggera, perché i testimoni di Geova e tanti altri protestanti prendono questo episodio per dimostrare che Dio non si può vedere, quando l'episodio, come l'Eterno stesso, affermano tutto il contrario. Se l'Eterno non si poteva vedere, perché Mosè, davanti al pruno ardente, si nascose la faccia per non vedere l'Eterno? Se l'Eterno non si può vedere, perché in seguito a Maria e a Aronne, lui stesso dichiarò di parlare con Mosè faccia a faccia facendosi vedere? Numeri 12.8. Se l'Eterno non si può vedere, perché Mosè ha potuto vedere l'Eterno di spalle? Esodo 22.23. E l'essenza di Dio nella sua gloria che non si può vedere e che nessuno ha mai visto? 1 Giovanni 4.12. Ma Yahweh, quale divinità di Israele, Deut 3.18, è stato visto e toccato. Perciò Mosè vide Cristo di spalle. Dopo questo incontro sul Monte Sinai, l'Eterno ordinò a Mosè di tagliarsi due tavole, sulle quali egli stesso avrebbe riscritto le parole che erano già sulle prime tavole precedentemente spezzate. 34.1 Mosè taglia le due tavole, sale sul Monte Sinai. 34.4 Dove l'Eterno gli si rivela quale Dio misericordioso e severo. 34.6-7 Rinnovando poi il patto. Poi l'Eterno ordina a Mosè di scrivere ciò che ha stabilito e non quanto dall'Eterno già messo per iscritto sulle tavole. La Bibbia mette in evidenza che Mosè stette altri 40 giorni e 40 notti sul monte, senza bere acqua e senza mangiare. Dispiace molto che ci siano dei commentatori i quali ritengono i 40 giorni e 40 notti dei meri numeri simbolici, che, aggiunti ai precedenti 40 giorni e 40 notti, fanno 80. Ma a nulla serve convincere chi dubita di ciò che legge. Trascorso il periodo, Mosè scese dal monte con le tavole della testimonianza scritte da Dio, ma ignora che la pelle del suo volto sia raggiante. 34.29 Così, quando Aronne e i figli di Israele lo videro, ebbero paura di stargli vicino. Perciò Mosè indossò un velo che toglieva solo entrando nella tenda di convegno. Il libro dell'Esodo termina, capitolo 35-40, con altre disposizioni di Dio per il popolo, in merito al tabernacolo, al propiziatorio, alla tavola dei pani, al candelabro, alla conca di bronzo, al cortile, alle vesti dei sacerdoti. Il primo giorno del primo mese del secondo anno il tabernacolo fu eretto. 40.17 E Mosè terminò il lavoro. 40.33 Questi, grosso modo, sono gli eventi più importanti che hanno preceduto la partenza del popolo di Israele dal Monte Sinai verso la terra promessa, la quale avvenne nel secondo anno, nel secondo mese, il 20° giorno del mese. Numeri 10.11 Aprile 2011, Ellero.